Ah, che peccato che non può uscire. Poi ho comprato la birra. Mi piace la brecca, che buona. Oggi qualcuno vuole venire, dice ci offrono a Tinnandi. Certo, capito che da domani sei a parlare con Marco di Nova, così dimentichi occhi anche tu. Vai, vai, fate una bella, eh? Aiuto, lì te le mutande, cosa aspetti? Se chiuso il telefono in faccia, vuol dire che sei finocchio, caro. Dai, togliti le mutandine. Oh, qua non te lo posso dire, se. Tanto te l'avrà detto anche Angelo Stile Libero. Ma qua non te lo posso dire, comunque ho scoperto chi è che rompeva le scatole a casa tua. Tuo padre non mi crede perché auto e non vedeva l'ora che io mi stacciavo con te, capito? Per illuso. Faccio passa, già ti capisco lo stesso. Vabbè, Canto, giù, che contento. Vabbè. Infatti ieri ho parlato con Angelo Stile Libero, ieri notte, mezzanotte. Comunque se ti ha detto Angelo è vero, perché gli ho detto io ieri notte di ieri a te. Ho scoperto la verità che è. Capo. Quanti, mamma mia, per carità. Con il telefono tuo 29 mattina mi diverto io. Grazie, il microfono non mi incazzo. Ho detto domani questa telefono ti squilla. Domani già mi diverto. Fa. 200 canali, eh? Finocchio. Tranquillo che domani già crepi tu e tua madre. Domani ti squilla tutti i giorni il telefono. Vai, stronzo. Madre tua mia, proteggiti, froscio. Fino a che domani già mi diverto io. A tua faccia tua! Porco! Stai tranquillo che il numero tuo non lo voglio, capito? Non è che mi sto incazzando per quello, capito? Poi sembra che perché sempre bordello, capisci? Che sta rompendo. Con gli amici tuoi di Oslo, o con quelli di Alghero, capito? Perché se ti sente padre, sta là del culo. Oh, fatto quella grande bagassa di mamma tua, quella grande bagassa di mamma tua, hai capito? Brutto coglione! Crepa tua madre, sei in culo. E oggi manco con me, non c'è a parlare con te, è vero, quel filocchio peggio di te. Metti musica, metti. Che tanto io sto chiudendo e te la prendi tutta quanta in culo. Quello devi fare a quella grande bagassa, mamma tua, capito? Brutto coglione! Scusa, Pepco, vediamo se tua madre è schiatta. Tu sei tuo numero 243364, eh? Non avevi il baracchino, vero? Brutto porco froscio. Lo devi fare a Mario Auto, eh? Quello che c'ha 24, 25 e 50. E froscio come te. Io mi diverto a fare il numero 2 adesso.